Radio 24 Reportage. Riace, il bronzo tra il bianco e il nero, di Paola Nania. Benvenuti a Riace, paese dell'accoglienza. Il borgo antico di questo piccolo centro in provincia di Reggio Calabria guarda il Mar Ionio. Rosarno, il paese dell'aggressione agli immigrati, è poco distante, 60 chilometri. Posti vicini eppure diversi. Riace da anni è diventato laboratorio per nuove forme di accoglienza e integrazione degli immigrati, soprattutto rifugiati politici. Qui vivono o hanno vissuto eritrei, somali, afghani, iracheni, palestinesi. Per loro il sindaco Mimmo Lucano e l'associazione Città Futura hanno immaginato forme di coesione attraverso il lavoro. Tante botteghe in giro per il borgo, gestite da una persona del posto e da un immigrato. Incontriamo il sindaco nella sede dell'associazione. Ci racconta come sia nata l'intuizione di ripopolare un borgo semideserto, di fare dell'immigrazione una risorsa, dell'accoglienza un marchio di fabbrica. Tutto inizia dalla sua esperienza di emigrato e dall'arrivo di una barca di curdi sulle stesse coste che restituirono i bronzi di Riace. Da allora sono passati 10 anni. Lei dove è emigrato all'epoca? Ho insegnato a Torino per 5 anni e ricordavo la mia infanzia e vedevo quella Riace popolata da braccianti, da massaie, da orditrici, da ricamatrici, da tessitrici. Quella Riace che a un certo punto mi appariva come un'utopia. Per questo ha voluto ripopolarla. E questa era solo l'immaginazione. Poi a un certo punto sono ritornato. Quindi, quando si è accesa la lampadina, quando ho capito che questa inversione di tendenza poteva avvenire anche tramite gli immigrati, c'è stato un episodio? Capivo che il riscatto poteva nascere da questo. Poi quel veliero che arriva era come se qualcuno attendeva l'arrivo di qualche cosa per dare concretezza, poi mettere le ali a quel sogno. Il veliero era la nave. Un veliero che è arrivato sulla spiaggia di Riace per una strana combinazione, proprio più o meno nello stesso tratto di mare dove anni prima erano stati ritrovati i bronzi di Riace. Ho pensato, il vento ha sentito questa, come devo dire, esigenza di costruire un processo di riscatto di questi luoghi, perché senza le persone, se, la storia alla fine la fanno le persone. Il luogo è inciso nella storia degli uomini. E così abbiamo costruito assieme questo percorso di riscatto. Uno dei progetti sperimentati a Riace prevede la creazione di alcune botteghe artigiane, il vetraio, la tessitrice, la ricamatrice. Ci accompagna in giro per i vicoli Cosimo Curiale dell'associazione Città Futura. Allora, questa è la bottega della tessitura dove lavorano 2 ragazze, una signora Pina ed Elena, una ragazza dell'Eritrea. Tutte le botteghe hanno in genere una persona del posto e uno straniero. Sì, una persona del posto e uno straniero che lavorano. E lo straniero che lavorano con delle borse lavoro. Anzi, lo straniero lavora con delle borse lavoro. Non è un normale contratto di lavoro, però sono dei contributi, un supporto che la Regione Calabria ci sta offrendo da 2-3 anni. Quindi è la Regione che... Sì, le borse lavoro le sta offrendo la Regione Calabria. Con i fondi europei. Un piccolo stipendio di 500, 600, che si gira da 500 a 600 euro. E nel frattempo imparano un mestiere. Imparano a socializzare con persone del posto e migliorano la lingua, perché diciamo a stare a contatto con un italiano che non parla magari l'arabo, il somalo... Sì. Quante persone sono coinvolte in questo progetto? Persone del posto che sono coinvolte con dei normali contratti di lavoro si aggirano intorno a 40. Quindi diciamo il settore dell'integrazione, il settore sociale dell'integrazione è diventato uno dei volani principali di sviluppo, sta diventando uno dei volani principali di sviluppo. Quindi l'integrazione e l'immigrazione come opportunità? Sì, noi cerchiamo di utilizzare al meglio quelle che molti considerano una minaccia, un pericolo, lo straniero che arriva nella nostra terra. Quindi tra poco, scusami, ci sarà un funerale celebrato con che rito qui a Riace? Tra poco ci sarà un funerale alle 2, celebrato con i riti islamici, è la prima volta che capita qua a Riace, anzi ieri abbiamo fatto affiggere, abbiamo dato ordine di affiggere i manifesti con la dicitura araba e una dicitura in italiano. Italiano e arabo. Italiano e arabo. Le botteghe sono tutte qui nel centro storico di Riace. Sì, sì, sì. No. Questo è il laboratorio che sta vicino di tessitura. Qua c'era il laboratorio delle ceramiche. Questo è un bazar afghano. Sì, sì. Qua ci sono prodotti provenienti da Pakistan, Afghanistan e India. Tra l'altro ho visto l'insegna italiana e araba. Sì, italiana, araba, no, italiana, quello è farsi. Italiana, farsi e inglese. Sì, abbiamo messo questa insegna qua. Un piccolo paese internazionale, è il caso di dirlo. Sì, sì. Questo è il laboratorio di ricamo, dove lavorano Caterina e Salam. E quest'altro che ti faccio vedere qua adesso è di, del vetrofuso. Vetrofuso. Il laboratorio del, del vetrofuso. Entriamo proprio nella bottega del vetrofuso. Qui incontriamo Irene, Nabil e Shukri, una ragazza somala. Mamma, io mi faccio il Riace. Ti piace? Sì, sì. Quindi per sempre il Riace? Sempre il Riace. Senti, come sei, dalla Somalia abbiamo detto, come sei arrivata dalla Somalia? Somalia lontana, prima macchina, strada, dopo Libia, Libia, barca. Quanto hai pagato per il viaggio sulla barca? $1,000. È stato un viaggio brutto? Che viaggio è stato? Sì, tanto brutto. Quanto eravate sulla barca? 35. Ed era piccola questa barca? Sì, piccola, come un tavolo. Minuscola, come un tavolo? Sì, così. Perché sei andata via dalla Somalia? Somalia c'è guerra. Per la guerra. Posso chiedere anche te come ti chiami? No, sono venuto a trovare proprio gli amici. Come ti chiami? Nabil. Da dove vieni, Nabil? Del Marocco. E anche tu hai fatto questo stesso percorso? No, no, io no, e sono venuto regolare. Come sei arrivato? Cioè, hai avuto un lavoro? Avevo 16 anni e me l'ha portato mio padre. Che qua, non... Tu ti senti di casa qui in Calabria, gioiosa? Sì, veramente sto bene. Da 10 anni che sono qua e sto benissimo. Hai anche un po' l'accento calabrese ormai. Sì, infatti, infatti. Sì. Calabria è bella. Scopriamo che a Riace sono appena arrivati 3 ragazzi africani feriti durante gli scontri di Rosarno. Stefania, una delle operatrici che grazie a Città Futura lavorano nel paese, ce li fa conoscere. Ossa! Come si fa? C'è Musa, gli altri? C'è la signora che vuole parlare con voi. Che è successo a Rosarno? Voi siete stati feriti, colpiti a Rosarno? Sì, sì, sì, mi è ferito il piede. Dove? La gamba, mi piede, lui è al fianco. Sì. Lui è al fianco? Sì, sì. E ora come state? Sì, bene. E adesso vivete qui a Riace? Sì, sì, adesso io sono a Riace. Com'è Riace? È diverso da Rosarno? Sì, è diverso da Rosarno. E qui cosa fate? Ma adesso io sono qua per fare la scuola, io sono qua. Per parlare meglio italiano, sì, per sì, studiare? Sì, sì, sì, per studiare, tutti e tre. E invece a Rosarno quanto lavoravate, quante ore? Dalle 7 alla 4, finiamo alla 4. Dalle 7 del mattino alle 4, sì, di pomeriggio? Sì, di pomeriggio, alla 4 di pomeriggio finiamo. Quanti soldi? 25 euro. Per un giorno? Per un giorno. E sono cattivo, è cattivo, quello è cattivo. Yacuba, il ragazzo che viene da Rosarno, ci dice che sta studiando italiano. Lo fa grazie al corso di lingua per bambini e adulti organizzato nella sede dell'associazione. La maestra è Cosimina Iarinò. Diamo un supporto per fare i compiti, facciamo altre attività. A tutti i bambini non italiani? Sì, solo quelli che fanno parte del progetto. E poi io la mattina invece faccio il corso di alfabetizzazione con gli adulti. Quanti alunni ha tra mattina e pomeriggio? La mattina sono intorno a 16, mi pare. Il pomeriggio una 20 bambini. Un'esperienza che secondo lei è legata al sindaco, cioè alla buona volontà del sindaco? Soprattutto. Se il sindaco non ci fosse più, non venisse eletto, Riace? Non so come andrebbe a finire, perché lui ci mette veramente l'anima. E ha salvato Riace? Sì, cioè perché è un paesino vuoto, destinato allo svuotamento, perché tutti andavano, emigravano, e quindi le strade, le case chiuse, le strade vuote. Invece adesso, come ti giri, io che sono di qua, non sono mai uscita dal mio paese, cioè vedi le viuzze che si sono rianimate, popolate di voci, di bambini che gridano, che giocano a palla, come una volta quando io ero piccola. Tra bambini che giocano e gridano, chiamano Mustafa o Abil, facciamo qualche domanda in giro per i vicoli di pietra, a partire da una giovane ragazza che risponde col sorriso. Scontenta no, anzi mi fa piacere. Riace a molti cittadini non italiani, molti stranieri. Le piace questa cosa? Beh, tanto tanto no, perché fanno un po' di confusione nel paese. Quale problema c'è? Tutti contenti a Riace? Tutti abbiamo l'esperienza. Tutti questi stranieri a Riace, è contenta o è dispiaciuta? È che non possono venire, perché non venire? Che poi che ci passano il pane qualcuno? È già qualche ora che giriamo per Riace, ripercorriamo a ritroso i vicoli di pietra, le strade in cui abbiamo visto bimbi palestinesi e insegne commerciali infarsi, vecchiette che conoscono solo il dialetto e bellissime ragazze africane. Riflettiamo sulle parole che ci ha detto il sindaco. I luoghi sono fatti dalle persone, dalle idee che mettono in pratica. Sul pezzo di costa in cui furono ritrovati i bronzi, la storia di Mimmo Lucano e dell'associazione Città Futura è testimonianza lampante di quelle parole. Si è fatto tardi, salutiamo Riace, paese dell'accoglienza.